Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Clash to Me, radiodramma punk di provincia, di e con Andrea Merendelli. Basso e voce Massimo Gamma dalla Ragione. Questa storia aveva 77 capitoli, poi è successo qualcosa. I pezzi sono esplosi. Ne sono rimasti 12. Gli altri pezzi rotti, se li volete, li potete trovare fra le pagine del libro. Clash to Me è un racconto diversamente autobiografico per tutti quelli che hanno amato i Clash dalla provincia profonda dell'Italia. È la storia di giovani inquieti e teppisti. Teppisti part-time che sognano la Londra del punk e dei Clash e vivono in mezzo ai campi di tabacco e in paesoni della Toscana né carne né pesce. È la storia dell'amore viscerale per Joe Strummer e la sua compagnia cantante, con drammi e azioni maldestre di ignobile bellezza, talvolta comica. Ma più che comica, un ghigno e tante piccole paresi facciali. Punk contadini senza terra, ospitati da Don Letts alla BBC Radio 6. E ora un radiodramma, per voce e basso elettrico Fender. Il linguaggio è un italiano sventrato, con molte parolacce. Sembrava proprio che il peggio fosse passato, eh? E invece il peggio, ladies and gentlemen, siamo noi. Il peggio sta per arrivare. Clash to Me, radiodramma punk di provincia in 12 capitoli. Capitolo primo. Sabato 2 agosto 1980. Mi ricordo dov'ero quando mi dissero che era morto Roberto. Roberto Procelli. Lui, forse, era vicino a un telefono, stava tornando a casa dal militare. Un ragazzo di Anghiari, neanche 20 anni. Uno degli 85, non si sa perché, morti alle 10:25 del 2 agosto dell'80 a Bologna. Avevo 15 anni e facevo lo struscio ciondolante intorno ad una piscina pubblica dove l'avevo incontrato qualche domenica prima. Lui era di San Leo di Anghiari e qualche domenica prima ciondolava con noi intorno alla piscina, cazzeggiando lungo il perimetro della vasca, per guardare le ragazze. Si usava così d'estate, la domenica pomeriggio, tutti a San Sepolcro, intorno alla vasca fatiscente della piscina Pincardini, vestiti sotto il sole, a guardare le ragazze in costume. È sabato. È un caldo che paralizza quel sabato pomeriggio. Stagna nell'aria il puzzo del cloro, è un tratto, in mezzo al vapore. I bambini schizzano via da tutte le parti, come pinguini che hanno visto un'orca assassina. Vestito di nero e luccicante di catene, sta arrivando di corsa un messaggero punk. I bambini urlano e lui, da 20 metri, grida: hanno ammazzato Roberto con una bomba! 5 metri. È scoppiato un treno! A Bologna! Che nessuno ci crede. E la piscina continua a urlare indifferente. È un aereo deficiente. È successo ieri l'altro in Sicilia. E Roberto è il militare a... Ah, dove, eh? Il messaggero allora piange e parla così piano che nel cicalare dei bambini gli scrollo le spalle perché lo dica 2 volte. È morto stamattina a Bologna con una bomba. Me l'ha detto la sua cugina. Stronzi! tutti di corsa verso il bar della piscina, che il barista sta guardando Disco Ring e non vuole cambiare canale, ma a bestemmie urlate in faccia. Cambia subito idea. Una bomba. 85 morti. Scorrono i nomi e fra i primi quello scritto sulla piastrina di un militare toscano. Cosa c'entrava Roberto con quella bomba? Forse non lo sapremo mai, ma dopo, più avanti, rifaremo la domanda. Non ci sono parole che possano esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate. Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma due stanno morendo ormai, una bambina e un bambino. Una cosa straziante. Capitolo 2. 23 maggio 1981. A 90 chilometri da casa mia. 60 miglia inglesi da Tavernelle di Anghiari a Firenze Campo di Marte, dentro uno stadio dedicato ad Artemio Franchi, un signore gentile che somigliava al mago Zurlì, suonano i Clash, la più grande band che sia mai esistita. Ho 16 anni e i miei genitori non mi ci mandano, troppo pericoloso. Capitolo 3. 23 dicembre 2002, ore 12. Pronto? Andrea? Oh, Gamba! Era lui, il Gamba, chitarrista degli Stra. Suona il basso Fender in questa storia e canta arrabbiato come a 16 anni. Quando aveva una Vespa Mod con l'adesivo dei Clash e gli specchietti retrovisori rubati alle Alpine 50 che trasportavano polli, legne e merda. Il Gamba si chiama Gamba dal nome di un telefilm anni 70, dove c'era uno sempre in coma. Hai sentito che è successo? È morto Joe Strummer. Come? Joe Strummer. È morto. Cosa? È morto, sì, ma come? Mi sa di infarto. Ecco lo spartiacque. Ecco il bivio. Ecco la fine dell'illusione che non ci sia un tempo per essere giovani e uno per essere vecchi. Il giorno che è morto Joe Strummer, ho deciso di cominciare a invecchiare. Mi sono voltato e ho guardato indietro verso la rabbia giovane che, prima o poi, lascia il controllo completo al mondo dei grandi. Moonies, remote control from the civic hall. Push a button, activate. You're gonna work, you're late. It's all grey in London town. We found the car crawling around. You got no money, you got no power. They think you're useless, so you are punk. Start on Tuesday. Repression. Can't be a Dalek. Repression. I am a robot. Repression. I obey. Capitolo 4. Ecco come tutto comincia. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le droghe. Le droghe, le audaci imprese io canto, che furono al tempo che passarono i Clash, d'Inghilterra, il mare e in Italia piacquer tanto, scatenando l'ire e giovanil furori di Joe Strummer, lor re, che si devanto di vendicar la morte del punk rock, sopra Re Carlo, imperator romano. Ma che cazzo vuol dire? I Clash. Paul Simonon, armato del basso che attraversa la pelle dello stomaco. Top Eridon, con i tamburi che danno ritmo al coraggio. Mick Jones, con la chitarra lama tagliente affilata che salta indemoniato. E lui, Joe Strummer, il cantante profeta, soldato, con la sua Telecaster, mitragliatrice e levare. Così comincia, con loro sul campo di battaglia. Io li vedo arrivare, che da questo vinile escono ancora le lame di un esercito sbandato. Luccica d'oro finto tutta la stanza, musica d'assalto dentro e fuori, sirene e lampi blu, mattoni. mattoni che spaccano vetri e vetri di macchine bruciate. Come puzza avere 50 anni, grassi, inquadrati e ordinari, con tutto questo disordine che invece preme fuori dalla porta e profuma di mille cose bruciate. Una sola parola: punk, la più grande rivoluzione del Novecento. Una sola armata: i Clash. Capitolo 5. I Clash. Dio Madonna de Cristo. I Clash. Prima di loro non c'è niente. Dopo? Dopo c'è poco o niente. I Clash. Lo scontro, la battaglia, la rivolta. Che forse non c'è mai stata. Eppure schianta tutto. Tutto schianta nel 1977. Che odore di castagna al fuoco. Se tu ne hai voglia te ne prendo. Ora, uno dei problemi dell'Italia di questi anni è il seguente. Mentre i Clash danno fuoco a Londra, la musica che incendia le classifiche dell'Italia è questa: i Cugini di Campagna. Poi uno si domanda come può un adolescente italiano degli anni 70 evitare le droghe e le Molotov. People got a lot of problems, but they don't mind to the brain. White people got to school when the chicken to be a jay. And everybody doing just wanna make drill. Nobody want to go to jail. Why riot? I wanna riot. Why riot around in my hole? Why riot? I wanna riot. Why riot around in my hole? All the power in the hands of the people reaching out to buy. While we walk the street, do chicken to eat a try. And everybody do it, just want me to. And nobody want to go to jail. Why riot? I wanna riot. Why riot around in my hole? Why riot? I wanna riot. Why riot around in my hole? In Inghilterra, i Clash. In Italia, i Cugini di Campagna. Voi giovani d'oggi, chi avreste scelto, fra i Clash, i Cugini di Campagna o drogarsi? Viene subito scartata dai punk della Valtiberina la cosa più pericolosa: i Cugini di Campagna. White Riot, rivolta bianca. Ma io, nel 77, ho 12 anni, sono un citto, sto in una frazione rurale d'Anghiari, Tavernelle, che è in Toscana, e sta in quel corno di Toscana che sta sotto la Romagna, che si infila nelle Marche, poggiando il culo sull'Umbria. È in Italia. L'Italia del caldo 77, l'Italia in fiamme. Ma mentre l'Italia brucia, io, figlio di una sarta che fa l'orlo ai pantaloni scampanati e di un giardiniere che lavora in un convento di suore francesi, io mi preparo alla cresima, insieme a qualche amico che diventerà eroe adesso, fra qualche minuto. Eroi che nel 77 fanno la cresima e non sanno ancora niente di Londra e dei Clash. Giovani indemoniate mezze seghe, con le prime pelurie sotto il mento. Eroi che sono ancora fra lo Zecchino d'Oro e Sanremo, dove Tony Sant'Agata canta I love the punk. I love the punk, I love the punk, I love the punk. Io vado verde, non fatico e non sostengo. Qualche volta mi rivolto dentro al funk. Perché sono punk, yes, all right, forever punk. Sputami in faccia. Rompimi l'ossa, Tony. Sì, sputami in faccia, Tony, rompimi l'ossa. Ma dimmi, ma che vuol dire punk? Rompimi l'ossa. Punk o Tony Sant'Agata, che vuol dire? Niente. Non vuol dire niente prima del 79, quando per me e per qualche altro eroe, ancora senza corazza e senza spada, arrivano le scuole superiori, il liceo. Il ragazzo sguaiato, cresciuto nel 77 per le campagne angheresi, sta mutando pelle. Educato da due onesti e umili genitori. Maleducato, autodidatta per vocazione, finisco in un liceo a San Sepolcro. 16.000 abitanti contro i 250 della mia frazione. Una città La cortina del citto selvatico si squarcia. Nuove amicizie con i dischi, il vinile per me. Esistevano solo le musicassette. Una musica nuova che suona ogni minuto dei miei 14 anni. Arrivato al liceo con i capelli a caschetto alla mal dei Primitives, camicia candida con sopra un cardigan carta da zucchero confezionato dalla Celestina, la mia vicina di casa terrorizzata dai miei urli e dai miei dispetti, ranocchie e topi morti fra le gambe. Arrivato al liceo col cardigan della Celestina e con il pantalone a zampa d'elefante esce London Calling e dopo qualche mese quel ragazzino non esiste più. Capitolo 6. Il punk, la rivolta. Sulla testa ciuffi di capelli ritti, sfumature alte, calzature pesanti e abbigliamento in bianco e nero. I colori spariti. Gli urli della mia mamma diventano sempre più stretti, dalla zampa d'elefante al pantalone a cannuccia, stretto e alto sopra l'anfibio. I jeans si strappano e di quel ragazzino non c'è più traccia. Le regole di quel periodo. Teppisti, ma non cattivi. Violenti fino a un certo punto senza sapere qual è il certo punto. Devastatori di aule e di supplenti. Saltare a due piedi sul muro della classe con anfibi sporchi, arbitri e misure. Sputare e ritirare lo sputo prima che cada. Sputare sulle teste del mondo dall'autobus in corsa. Picchiarsi per finta con i mods e farsi male per davvero. Parlare di caos, anarchia. E andare alla messa di Natale. Odiare i fricchettoni e i fighetti. Odiare le categorie politiche. Odiare il terrorismo nero che ci aveva portato via Roberto. Amare il terrorismo musicale dei Clash, ma non tutti amano i Clash, perché essere alla Clash non è roba da tutti. Primo, per essere dei veri rude boy come nel loro film documentario, bisogna conoscere il film a memoria. Bisogna conoscere i dischi e le canzoni a memoria e nel 1980 i Clash hanno già sfornato 3 dischi di cui uno doppio e stanno per sconvolgere il mondo con un disco triplo. Riepilogando, The Clash, il primo disco conosciuto come Clash 77 e poi Give Em Enough Rope 1978 e London Calling dicembre 1979. Il doppio al prezzo di uno, la rivelazione del nuovo mondo. La sinfonia fantastica del punk evoluto, il disco da lanciare ai marziani nel buio dell'universo. Brrr. Eppure i puristi del punk disprezzano London Calling. Inizia al liceo la faida dei gruppi musicali, il vero punk contro i traditori, i Clash. E chi li segue? Noi. Stanno a guardare quelli che dicono che il punk è già morto, perché le prenderebbero dall'una e dall'altra parte. Così, ecco i rampolli viziati, i falsi anarcho-punk, che oggi fanno i capitani d'industria o gli avvocati. Uno è a Roma nell'Opus Dei, cavaliere dell'ordine di questa fava, che se ci penso a ritroso e lo incontro per strada, io gli do una testata in faccia, gli do. Inizia lo scontro. La periferia della Londra che brucia è un campo d'atletica abbandonato fra le mura medice della città di Borgo San Sepolcro, il Campaccio. L'appuntamento una sera d'estate dell'81. Fra gli anarcofighetti, 2 infiltrati neofascisti, ma uno è con noi per pestare all'occorrenza il camerata collega che odia i Clash. Il nostro si chiama Lardo e lui i Clash li ama. La serata è calda. L'asfalto della pista d'atletica brucia. Dallo stereo portatile con 12 pile grosse da tirare, una volta esaurita la carica, partono i canti di battaglia. Il pogo diventa violento. Indemoniati, fanti a piedi, ci scontriamo per aria e per terra e per terra. Qualcuno rimane a sanguinare. Burning. Bruciare in fretta. Saltare, sputare, sgomitare. Che il mondo è stretto. E bruciare per aria. Molotov contro Molotov. Rude contadini contro part-time punk. Sparati senza freni nelle discese dei nuovi anni Ottanta. Urlo e schiumo saliva secca. Anarco! fave, teste di cazzo! Uno di loro, oggi sindaco revisore alla Corte dei Conti, mi urla. Contro te, Torsolo contadino de Tavernelle, contro te, contro i Clash e contro il sistema. E mi dà un cazzotto sul collo, come quelli che dalle mie parti si danno ai conigli per ammazzarli. Il Toco, skinhead rosso, eroe del salto a piedi pari sui ginocchi, che fa male anche quando scherza, gli salta sui legamenti e quasi credo che gli spezza il ginocchio, e lui urla: oddio, piangi revisore dei conti, vai a casa, coglione. Siamo mezzi rotti, col fiato che rimane spacchiamo un po' di bottiglie sulle antiche mura, così, tanto per fare. Le pile sono esaurite. Il collo mi fa male, ma l'onore dei Clash è salvo. Ma non siamo salvi noi, no? Perché il padre importante della narcopunk chiama la polizia e ci prende i documenti a tutti. Mezzo fegato, un altro eroe dei Clash Country Rockers di quella notte, si esalta. Vede la polizia e inizia a urlare: oh, ma come nel film! Cazzo, la polizia ci reprime come nel film dei Clash! No, mezzo fegato, non è come nel film dei Clash. Nel film non ci sono le due labbrate che prendo dal mio babbo, le prime due dell'era Clash, e neanche le ultime. L'avevano chiamato dalla caserma segnalando che il giovane figlio aveva prodotto schiamazzi e atti di teppismo in uno spazio pubblico frequentato da vecchi e da bambini. Vecchi e bambini a pogare coi punk a mezzanotte. Ma dai, babbo, ma te ci credi, cazzo? Non puoi combattere la legge. Tanto vincono sempre loro. Come? Non puoi combattere la legge? Cazzo, mezzo fegato! Ora anche il mio babbo parla come i Clash. I fought the law, and law won. Capitolo 7. Traumi irreversibili. Sì, il fatto è che, anche se il mio babbo parla come i Clash, nel maggio del 1981 i Clash arrivano a Firenze e io sono a casa. Lui non mi ci manda, troppo pericoloso. Ma se ci vanno tutti, proprio tutti! C'è la scuola. Sei in una classe di sbandati. Ma come? Ma se ci va anche il terzo, che c'ha il babbo guardiaboschi, eppure ce lo manda! Scappa. Il terzo punk, con i capelli che sembrano i chiodi lunghi dei nostri travi di campagna. Il terzo punk, che ha un giubbotto che pesa 12 kg di bulloni e borchie, un chiodo da battaglia con scritte sopra le ragioni dell'esistenza. Dead Kennedys, Germs, Subhumans, Crass, Flux of Pink Indians, Killing Joke, Discharge, Conflict, GBH, Black Flag, Public Image Limited, Bad Brains, TSOL, Stiff, Little Fingers e... X. I santi protettori del punk rock. Ci va la Giulia, con la sua sorella Chiara, unica punk donna e per questo corteggiata segretamente da tutti. Ci va Drago col suo fratello. E ci vanno Paglia e Fieno, due fratelli pionieri del rasta italico e delle coltivazioni biologiche. Da fumare. Ci vanno il Crucco, Agonia e Oblio, che in onore del suo nome si scorda i biglietti a casa e lascia mezza natica sulla recinzione per scavalcare. E poi ci vanno Capra, Diugga e Manzo Morto. Che Manzo Morto? Lui dice che è il più punk di tutti perché fa sesso con svariati pezzi di carne, anche se il suo partner preferito è l'osso buco di vitella, giovane. E poi ci vanno ovo e lardo, caronte e ematoma. Il giorno prima, naturalmente il giorno prima del concerto, si infila due spille da baia nelle orecchie senza disinfettare e gli viene un'infezione che fa tutto il concerto con la febbre a 40. Lardo racconta che ematoma allo stadio urla che vede gli zombie intorno. E poi finisce a Careggi, all'ospedale, e mezzo lobo, glielo devono tagliare per forza. Ci va anche Baco con il fantasma, che è una Renault 4 a metano e parte sempre il giorno prima dei concerti. E poi ci vanno gli anghiaresi, quelli del mio paese che non sono punk, o forse sono i più punk di tutti. Scassa, Primetto e Velso, i furiosi rude boys d'Anghiari. Gli importa una sega di chi suona, basta che ci sia casino. E hanno sentito dire che i Clash sono una garanzia. Insomma, ci vanno tutti, ma io no. E allora mi chiudo in camera, con lo stereo a tutta manetta, a sfogare la rabbia e l'odio per i miei vecchi. Indosso la mia divisa d'ordinanza, la maglia dei Clash con la stella a 5 punte, la ragione della mia esistenza. Madonna, oddio, Madonna di Cristo, soffoco, soffoco. Apro la finestra. Ma dalla finestra di camera mia, niente caos urbano, no. Solo rumori di campagna, grilli e ranocchie. Ma dove cazzo sono? Ah. A Firenze ci saranno 20.000 persone che urlano, anfibi pesanti che zoccolano al tramonto nella polvere. Folate di canne, sudore e fiori di tiglio, che a Firenze si schiudono a fine maggio, mentre un ipnotico dub reggae dà il tempo allo sbandare delle orde di punk e rude boys che premono all'ingresso del campo. È un maggio che sembra estate. L'Italia è appena entrata nei favolosi anni Ottanta. Ma favolosi per chi? Non c'è niente in televisione, niente sulla stampa, quasi niente alla radio. I fascisti mettono le bombe, si spara per le strade in nome del popolo e in Irlanda del Nord si muore per sciopero della fame. Cosa c'entra l'Irlanda del Nord? A Bobby Sands, che muore per sciopero della fame 40 anni fa esatti, pochi giorni prima del concerto dei Clash a Firenze, è dedicato l'Impossible Mission Tour, missione impossibile. Salvare gli irlandesi dal regime fascista della Thatcher. Belfast, Londra, Birmingham. Ma io sono a Tavernelle, 250 abitanti in mezzo a una valle della ridente Toscana, con i cani da cinghiale che appaiono in lontananza, con la Celestina che torna dalla funzione di maggio, il mese della Madonna. Il mese della Madonnina? Vedo le donne che tornano dalla funzione lungo la strada provinciale Libia, che collega le dolci colline anghiaresi ad Arezzo. Passerà nell'81 una macchina ogni 20-25 minuti nell'ora di punta. Vorrei affacciarmi e almeno vedere la Westway di Londra, la strada e il mito che si percorre nelle loro canzoni, la grande anaconda d'asfalto, il massimo dello squallore metropolitano. Mick Jones vive in casa con la sua nonna Stella e dal suo palazzone schifoso e anonimo vede la Westway, vede gli scontri dei Rasta con la polizia, vede il formicaio meccanico che non si ferma mai. A Tavernelle di Anghiari non c'è un condominio squallido e fatiscente, né una casa che superi due piani. E soprattutto non ci sono Rastamen. Neanche una macchina bruciata. Bruciasse almeno una macchina. Sale la rabbia, sale la furia come lava che sta per rompere la crosta. A 16 anni la pelle mi suda come se fossi lì anch'io, con Roberto che mi racconta che anche a Bologna l'estate scorsa c'era stata tutta questa attesa nervosa e piena di rabbia, ma dopo, quando erano saliti sul palco, Roberto anche a Firenze e io anche a Bologna, sarebbe stata tutta un'altra storia. L'urlo aumenta, sale la schiuma della rivolta, tremano le tribune dello stadio. Oh, ci sono anch'io. Aspettate, bastardi, a cominciare. Non cominciate senza di me! London calling to the faraway towns. Now war is declared and about to come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for the one with the yellow eye. The ISIS is coming, sounds of my name. Angels, stop running, the witch is grooving. A nuclear era, but I have no fear, cause London is drawing out. Live on the river. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. London calling. Sogno. Sogno che l'ho cantata io. Ma sono stato io, veramente? No, no, non sono stato io. Io ho il disco del concerto, ma io non... Dedicato all'Irish Republican Army. Il disco l'ho comprato a Firenze nel 1991, 30.000 lire 10 anni dopo. Perché ancora, io ho dentro le cicatrici del giorno dopo. Oddio, mi fanno troppo male i racconti del giorno dopo. Quelli che sono stati a Firenze camminano sospesi per aria. Non voglio parlare con loro, non voglio parlare con nessuno, e tutti invece mi parlano. Non mi importa una sega, non voglio sapere un cazzo. Andate a fanculo. Ascolto musica reggae per tutta l'estate, niente Clash. Voglio calmarmi e voglio far capire a tutti che senza il reggae i Clash non sarebbero mai esistiti. Non è vero. Ma è la mia risposta al buco nero che tuttora angoscia la mia vita. Non averli visti a Firenze, a 90 chilometri da casa mia, 60 miglia inglesi da tavernelle di Anghiari. Il reggae mi consola, perché è il mio primo riflesso cardiaco. Il battito è la frequenza dei momenti migliori, la musica dei primi amori. Specie per questa canzone. Police and thieves in the streets. Sì, guardie e ladri nelle strade, che i Clash trasformano in cover e in sintesi del meraviglioso ibrido punk reggae. It's a punky reggae party, canta Bob Marley. E anche i Clash si sottomettono alla Black Rasta Rule. La legge del migliore, sì. La devozione dei bianchi alla musica nera. Reggae, ska, soul, hip hop, rap. Che i Clash raccontano in tutti i modi, ma il più bello è questo. Midnight to six, man, for the first time from Jamaica. Dillinger and Leroy Small, and Leroy Wilson, cool operator. Cam Boo for UK pop rag, with backing band sound system. If they go to anything to say, for the many black here to listen. But I won't drop all the night with the Uncle Foster right. But on stage with the gap, no room for a rebel. Ooh. On stage with the gap, no room for a rebel. Ooh. On stage with the gap, no roots. Rock rebel. In the UK, they were not as anyway. They're hard too busy fighting for a new good place under the lightning. The new groups are not concerned for the war there is to be learned. tropical butter sweet. Hot, you think is funny? Turni rebellion into money. Sono un white man, un ragazzo toscano bianco, ho una vespa bianca, scorrazzo e cazzeggio con gli amici mods dell'Umbria lungo strade senza traffico e senza taxi neri, bus rossi a due piani, rasta con auto che dondolano di musica reggae. L'unico pericolo dalle mie parti è qualche trattore che ogni tanto sbuca dai campi di fieno. Brutti sudiciumi, guardate in dandetta, rotti in culo! La poesia della lingua toscana. Una mano sul manubrio del Pix, una sullo stereo, ascolto Radio Clash, schivo i trattori con la merda di Tianina nel rimorchio e sgasso veloce verso i primi anni Ottanta. Sono gli anni dell'iniziazione a tutto. Capitolo 8. Sistema nervoso centrale e periferico. La musica è il sistema nervoso centrale, le periferiche sono il cinema, le droghe leggere e la fica. Sì, il cinema di Sergio Leone, ma solo perché ispira le chitarre ai Clash, è il cinema dei 2-3 film da rivedere all'infinito. Su tutti Quadrofinia, perché quando in fondo al film la vespa di Sting si schianta sullo scoglio, Fanale, mod dell'Umbria, urla la stessa bestemmia tutte le volte e tutte le volte squarcia il buio con un no, no, no, no, che dura fino ai titoli di coda. Poi c'è Rude Boy, ma non conta perché è il film sui Clash, non un film. E Blade Runner, che l'aveva visto per prima la cugina scema della mia fidanzatina dell'isolotto a Firenze e ce l'aveva recensito così. Beh, a me non è piaciuto, faceva tre piovere. Madonna. Insomma, alla prima proiezione nel cinema dei preti a San Sepolcro ci sono tutti i punk mescolati a quelli di Comunione e Liberazione con Duga, nervoso e pieno di sospetti sull'attitudine punk del film. Sostiene Duga... Perché già moi preti, secondo te Duga danno un film Duga con le musiche punk Duga, ma manco per il cazzo Duga. Duga, si capisce subito da dove venga il soprannome di Duga, che oggi lavora alla Buitoni al forno delle fette biscottate. Lui non bestemmia, o meglio campiona a modo suo la bestemmia più comune e la disinnesca con i suoi ipnotici ripetuti infiniti Duga, Duga, insomma Duga. Il film comincia. Comincia Blade Runner al cinema dei preti e dopo i primi titoli di testa arriva la colonna sonora. Musiche di Vangelis, scritto Vangelis. Ma Duga, ma ve l'avevo detto che c'era il trucco, Duga, ci sono le musiche del Vangelo! Ci hanno incastrato tutti, Duga, preti! E tutti ridono e tirano le lattine di birra sullo schermo. Che si riaccende la luce in sala e una piramide di carne picchia per scherzo il povero Duga. Cinema, droghe leggere e la fica. Le droghe leggere hanno diverse scuole di pensiero, ognuna con i distinguo su cosa si intenda per droga pesante. Droga pesante è l'eroina, perché l'eroina brucia tutti i fiori malati del nuovo mondo punk. Ma soprattutto, l'eroina tiene i Clash e tutti noi in apprensione per Topper Hedon, il grande batterista. Se la scimmia se lo porta via, i Clash si scioglieranno e sarà la disperazione per tutti. Nella grande casba della droga valtiberina toscana sono a decine i settori, ognuno ha il suo, i mod le anfetamine, i fricchettoni il fumo, acidi ed eroina più o meno vera ce l'hanno in pochi, l'erba dalle nostre parti ce l'hanno tutti. Ooh, yeah. Tipica canzone della battitura. La droga ci vuole, ma non deve dare dipendenza. Quindi niente eroina, niente cocaina, niente acidi. Popper, benzina e il mastice della nostra premiata fabbrica di scarpe angiaresi le sniffate a rischio. Sì alle anfetamine, sì al fumo, sì all'erba. sostanze da intrattenimento senza effetti collaterali, a meno che il seguente episodio non si voglia classificare come effetto collaterale. Effetto collaterale sulle rotaie. L'estate dell'82 produce un'erba nostrana dai poteri devastanti. Sono gli ultimi giorni di scuola. Giulia e Chiara, unica punk femmina da riproduzione, scappano con me da scuola, lungo il binario unico della ferrovia Umbra, la famosa MUA. La Giulia mette l'orecchio sul ferro delle rotaie, l'ha visto fare in un film di indiani. Giulia è fanatica con gli indiani, fa la sciamana e miagola a occhi chiusi una canzone Apache. Le do un calcio nel culo, ma vaffanculo Giulia, te e agli indiani. E guardo Chiara, divinità moicana, seduta fra le rotaie. Chiara ha la cresta, una cresta curata giallo fluorescente. Sono innamorato perso di lei, ma non posso dirle che non ho mai fumato una canna in vita mia. Lei ne produce a ripetizione, una dietro l'altra, impasta, lecca, rolla, impasta, lecca, rolla, lecca, rolla, impasta, una macchina. Usa, per filtro, pezzettini di un santino di Santa Veronica Giuliani, una santa delle nostre parti che, chiudendosi le porte di casa con le mani nel mezzo, diceva d'avere le visioni. Facci vedere qualcosa anche a noi, Santa Veronica, che questo fumo e sabbione è merda. La Giulia ride, non capisco, ma rido anch'io, sì, farà ridere. No, lei no, Chiara non ride mai, lei fuma. Ora fumo anch'io un carciofo, variante da colpo di grazia per tre adolescenti con qualche nipio il difettato della Buitoni nello stomaco. Chiara non si muove, io invece vedo i binari che mi girano intorno come due serpenti. Oddio, mi torna sul latte, che ora sa di verdura bruciata verde. Chiara, gli fa la Giulia. Chiara, tesorino, levati da quei binari che il tre... Effetto collaterale sulle rotaie. La Chiara si alza e inizia a camminare lungo i binari abbassando il collo come se vedesse qualcosa all'orizzonte. Chiara? Chiara, Topino, esci da quei cazzo di binari però, eh? Chiara? Chiara va avanti. Io sto per vomitare ma non posso. Sarebbe perdere punti irrecuperabili davanti a lei. Lei che continua a guardare in direzione Umbria. Ma che cazzo c'è? La polizia. Vomito, oddio. Madonna, mi hanno scoperto la prima canna. Altre due labbrate del mio babbo, ai fondelo e vaffanculo. Bisogna chiamare la polizia, subito. Lo dice gelida, metallica. Giulia guarda me, che vomito inipio sulla maglia, indifferente. Chiara, smetti di fumare, dammi quel carciofo subito. Chiara getta l'ordigno, volta la cresta e scappa, correndo come una matta, ora in direzione Toscana. La riprendiamo a una cabina della stazione del treno di Sansepolcro. Sta cercando il numero di telefono della MUA per avvertirli di un'imminente tragedia. I binari sono stati sabotati. L'hanno saldati. A punta! Lo dice stendendo le braccia in avanti e unendo gli indici, come fosse una statua patriottica del cazzo. La sorella, in convulsione di riso, ci mette 10 minuti a spiegarle le regole della prospettiva. Capitolo 9. Segnali inquietanti della fine. Eppure, se guardate la copertina di Combat Rock, non sembra che stia troppo male. Dico, Topper Hedon, il genio batterista che ci farà ballare tutti con la sua Rock the Casbah, non sembra rovinato dall'eroina. Prendete in mano quella copertina, è l'unico che guarda l'obiettivo e sorride. Gli altri due, Mick e Paul, guardano altrove. Joe Strummer si copre la faccia. Un segnaccio. Di lì a poco, Joe Strummer scompare senza lasciare traccia, sparito nel nulla. Un giorno alla radio qualcuno dice che si nasconda a Parigi e allora cazzo, andiamo in gita a Parigi con la scuola e ci mettiamo a cercarlo. Nella metro, vicino al Forum Les Halles, Franz dice che forse l'ha visto, ma nessuno ci crede. Nelle notti di Parigi soffia dal canale della Manica un presentimento sinistro. I Clash non durano. No one pays to ride on a rock and roller coaster. And we went out and got our name in small print on the poster. Of course we got our manager, and though he ain't the mafia, a contract is a contract when they get 'em out on ya. E va a finire proprio così. Dopo Topper Hedon, anche Mick lascia il gruppo. Anzi, no, aspetta, viene allontanato, tradito dai fratelli di sangue e di chitarre. Non si può accettare. Esce un comunicato ufficiale. Divergenze ideologiche. Abbandono dello spirito originale del gruppo. Tradimento. La chitarra lama tagliente affilata. Mick Jones, un traditore. Ma dai, non è possibile, non ci crede nessuno. Rapida indagine fra tutti. I Clash, senza Mick Jones, non sono più i Clash. Il più grande dei nostri sogni di rivolta è finito. Game over. Scoppia la rabbia. E la rabbia, ognuno la sfoga a modo suo. Io, per me, se le cose stanno così, se non c'è più un motivo per restare insieme agli altri, forse è il tempo di scappare. È il tempo delle fughe. Capitolo decimo. La E-45. La E-45 in costruzione sarà la mia Westway verso il mondo, perché il tempo dei Rude Boys duri e puri sta scappando via e io non voglio stare a guardare. E allora cominciano le fughe. Come si fa a stare fermi? Mentre le cose cambiano in peggio, bisogna scappare! Scappare perché la velocità deforma i contorni delle cose, non vedi i trattori, le vacche al pascolo, le famiglie che fanno i picnic. Scappare! Perché la E45 ora due corsie in direzione nord. Scappare, perché il liceo ora finisce e per me finisce male. Che alla maturità con la maglia dei Clash e la cresta ci trova il presidente che è il segretario del Movimento Sociale Italiano di Arezzo, che io per via delle canzoni porto inglese seconda materia e mi danno italiano. Prendo due, sì, due e fa media, ma passo lo stesso e vaffanculo presidente. Scappo sul piazzale della scuola e lancio oltre il muro bruscagli, caretti, luti, la triade da incubo delle glorie letterarie italiche. Vaffanculo anche voi, scappare! Verso la E45, verso il mare, sognando il Roxy, il Rainbow e tutti i locali del punk londinese. Scappare. Perché il locale lungo la E45, dalle mie parti, si chiama Joy Club. E a dispetto del nome Joy Club, è il posto più triste del mondo. Scappare verso il mare. E45 mari, ogni fine settimana. Tornare a casa dal mare e scappare da casa, che la mia mamma urla che sono più bianco di quando sono partito. Scappare dalle risse giganti, al Columbus, a Riccione, punk contro nazi skin, contro fricchettoni, contro rocker, tutti contro tutti. Fuggire via, che Paglia e Fieno vedono tre skinheads inglesi con gli zaini e le pentole davanti alla stazione di Rimini e li prendono per il culo. Oh, che ci fate con le pentole stelline, eh? La minestrina per la mamma. Che questi non capiscono. E Fieno, che sa l'inglese, glielo straduce. Hey, little funny stars, are you going to cook a pretty vegetable soup for your bloody mother? Scappa. Pare che quel bloody non gli va giù e lo skinhead più secco ci tira dietro una pentola che spacca il fanale di un autobus in corsa, Rimini fiera. La E45 diventa un'ossessione. Passiamo i pomeriggi a guardare i tir che passano sognando la Westway dei Clash, dei traditori Clash. Saliamo su punti panoramici e seguiamo i suoi sviluppi. Ogni giorno una nuova colata di cemento, un nuovo pilone. Oh shit, Diuga, ma finalmente un po' di degrado, Diuga, oh. Guardatela giù. Quel pilone gigante di cemento ieri non c'era. Colata fresca di stanotte, Diuga. Oh, ma sarà vero che ci metto la sabbia dentro? No, la sabbia no, ma andò a gonfia, ci sono i cadaveri dei mafiosi da smaltire, Diuga. Ma vi rendete conto, Diuga? Nessuno ha visto quel che si è visto noi. La E45 in costruzione, Diuga. Siamo stati testimoni oculari della E45. Oslo gela e noi in mezzo. In pochi mesi, pezzi grigi tratteggiano e spezzano le odiate colline verdi intorno al Tevere. e altre sostanze, lanciano sull'asfalto il mito del degrado, avere famiglie sfasciate e maledette, vivere in una baracca sotto un viadotto. Ragno è paratamenico con il numero dei tir delle macchine dell'E45, li conta in parallelo, nord-sud. Quando si alza il vento, i gas di scarico e le frizioni bruciate dei camion illudono i nostri nasi. Che se chiudi gli occhi e non pensi a un altro inverno senza meta, oh, ti sembra di essere a Londra. Cambia il vento e la merda delle chianine al pascolo ci ricorda dove siamo e da dove verremo per sempre. Io strappo l'erba fresca e la mastico, ruminando la mia disgrazia di avere due genitori normali. Guardo passare i tir carichi di macchine da vendere e di maiali da mortadella, covando la rabbia in attesa di Genova. Sarà l'ultima grande fuga. Capitolo 11. L'ultima fuga. Domenica 9 settembre, ore 23:30. Nessuno. Non c'è nessuno che parta per Genova con me. Chi ha visto i Clash a Firenze fa il distaccato che gli spaccherei la faccia. Chi non li ha visti sostiene che ormai non ne valga più la pena. I Clash fanno schifo. Ma lo sai, Diuga, che devi fare, Diuga? Ma Diuga, se ci vai, salire sul palco, Diuga, puntargli in coltello alla gola, Strammer. Bastardo, Diuga, che se non rimetti dentro Mick Jones, io t'ammazzo, Diuga, davanti a tutti, vedrai se non lo faccio. Non è una cattiva idea, Diuga. Se è vero che ognuno distrugge sempre le cose che ama, non è una cattiva idea per niente. Vieni con me, gli faccio, che ci andiamo insieme a chiedergli perché l'ha fatto. Diuga, allora, mi sembra che stia per piangere, che guarda il suo fratello da lontano, sdraiato in coma sugli scalini dove a San Sepolcro c'è quel Cristo risorto. Se puoi, Diuga, Strammer non ci risponde, Diuga. E va via, verso quegli scalini, a raccattare il suo fratello in coma. È vero, amico mio. Vado a Genova per non avere risposte, ma ci vado lo stesso. Ci vado da solo. Ci vado per restare libero. Stai free, Diuga! Mi urla dagli scalini del Cristo risorto. Stay free! We met when we were at school. Now the Duke knows she from no one. We were full. My teachers say we're done. Holly have a fun, you know this all, everyone in the classroom. Go see the past and things that change, I'm moving anywhere I wanna go. And I'll never forget the feeling I got when I heard that you are home. And I'll never forget the smile on my face, cause I knew where you would be. And if you're in the ground tonight, have a drink on me. Go easy. Step light. Stay free. Vado a Genova per restare libero. Ci vado per Diuga e ci vado per soffrire. 11 settembre 1984, il mio 11 settembre è nel 1984, a Genova. Chi cazzo sono questi cloni vestiti da marinai che scimmiottano i Clash? Registro tutto. Devo riportare una prova che è davvero tutto finito. Salgo sul palco perché le transenne non tengono la rabbia. Ci salgo sul palco, sì, ci salgo per Diuga e per tutti gli altri. Il servizio d'ordine non tiene, sono lì a due metri, a uno, a un niente. E Joe, why? Mi guarda e sorride. Ha la cresta ossigenata, una giacca bianca da ammiraglio della marina e gli occhiali da saldatore. Ma che cazzo ridi? Rispondimi. Why, Joe? Why without Mick? Perché? That's life, my kid. A fucking life. Forse me l'ha detto o forse no. Però mi abbraccia. Giuro che mi abbraccia. Fa finta che sia tutto normale, dai. In fondo, è soltanto rock and roll. Volo dal palco. Galleggio, rimbalzo. Ruoto nel palasport come in una giostrina dell'infanzia. Rido, piango, bevo la bottiglia di acquapanna che Joe mi ha passato e che ancora oggi conservo. Perdo le scarpe pesanti, le scritte, la cresta, gli sputi e i sorrisi. È morto il punk. O forse sono morto io, caduto nella guerra a niente. Sono al buio dopo il mio 11 settembre e tutte le altre eroiche scintille le vedo deboli o spente. Qualcuna si spegne sul serio, scomparsa in un abisso minore delle nostre ridenti colline da rinascimento turistico. Firenze e l'università portano via anche me da qualche abisso minore. Ora vivo a Novoli, il Bronx fiorentino, all'ottavo piano di un condominio fatiscente e schifoso che sopra la testa ci atterrano gli aerei di Peretola, davanti ci costruiscono un ipermercato e per terra sei corsie di tir che la notte scaricano all'ortofrutta. Ho tutto il degrado urbano che voglio. Ma ora tutto questo mi fa schifo. Ma lo vedi che bestie strane che siamo? Ho trovato la mia Westway, via di Novoli. C'è anche il traffico, ci sono i locali con i concerti. Ma non ci sono più loro. La colonna sonora delle nostre vite fottute. La banda degli eroi punk è sbandata in un niente, che siamo appena a metà dei 20 anni ma non siamo più quelli. Siamo pezzi perduti per strada, locali che cambiano nome, capelli lasciati fra i denti del pettine, con le prime gravidanze che appena Lardo mette incinta una, il giorno dopo la cravatta e si mette in giro a vendere prodotti per la casa, Dio, la casa, che ci ha sempre fatto schifo averne una in campagna o nel centro storico di una storia ripugnante, la storia che conta, quella che sta urticando i miei 20 anni, è solo la nostra. Anno zero, 1977. Così passano gli anni e un giorno sbuca dal nulla il nuovo gruppo di Mick Jones, i Big Audio Dynamite. A Modena suonano con gli U2, ma chi se ne frega degli U2? Se vado a Modena, vado per fare a Mick Jones la stessa domanda, perché sono anni che aspetto. Why, Mick? Why? Dimmelo te almeno. Ma a Modena la tristezza mi passa, che ci trovo i Rude Boys d'Anghiari, sì, quelli del mio paese, a fare casino fin qui, che loro passano gli anni e sono sempre uguali. Scassa, Velzo e Primetto, i furiosi Rude Boys d'Anghiari. Gli importa una sega di chi suona, basta che ci sia sempre casino, loro. Pecore! Biglietto 5.000 lire, de qua! Scavalcate il recinto, pecore! Velzo sembra un leone. Ha una criniera da leone in testa e il torso nudo decorato di cicatrici che sembrano medaglie tatuate. Con Scassa indemoniato fanno volare la gente di là da Cancelli per 5.000 lire. Venite dal buon pastore, pecorine! Beh, che biglietto costa 20.000 lire! Pecorine, volo proletario! Beh! Finché arriva un mezzo motociclista con la bandana in testa. Uno di questi romagnoli della Riviera che credono d'essere in California. Ecco, insomma, questo fa lo spiritoso e gli fa: uè, sdentato, ce l'hai il fumo da vendere? Che Velzo in quegli anni ha qualche dente sì e qualcuno no, ma non gli fare mai le battute sui denti mancanti. E infatti Velzo diventa serio e gli fa: ma perché a te, gringo, ti pesano i denti? Eh? E quello ride, e poi non ride più, che Velzo gli dà un cazzotto in bocca e gli butta giù 3 denti davanti. E poi, parlando come un profeta, gli mette un piede sul petto e gli urla: vergognati, drogato! E tutti a ridere a morte, che stiamo in piedi giusto perché ci sono 20.000 persone intorno a noi. Così, Mick Jones lo vedo da lontano, ma mi consolano i Rude Boys d'Anghiari. Se non c'è rimasto niente, almeno ci sono loro. Ultimo capitolo. Normalità. La musica, quella musica. Non ascolto più i vestiti. Quei vestiti di quella musica. Non li metto più, ma nessuno se li mette più. E perché qualcuno dovrebbe, dai? Da lontano non riconosco più nessuno. Chi è dei miei? Te sei dei miei laggiù? Non li sento più i miei. Non li vedo più e da lontano non ne riconosco più uno, che prima invece, solo dal camminare, anche a un chilometro. Chissà cosa ascolteranno i miei, magari la musica classica o il grunge che ora va tanto di moda. Io adesso ascolto il folk celtico. Che qualche volta non ci credo neanche che un giorno avrei cambiato musica. Joe Strummer lo inseguo ma non lo tocco mai. Lo inseguo a Livorno che si ammala e non viene al concerto. Lo inseguo a Londra che dopo il concerto scappa dal retro del locale lungo la Westway. Joe Strummer fa le colonne sonore ai film, alla Ennio Morricone. C'era una volta in America. I'm so bored with the USA. È come la storia dei Clash. Amici teppisti legati col sangue che poi si perdono e si tradiscono. È un po' la mia storia, anche se ancora oggi io non so mica bene chi fra di noi abbia tradito cosa. Muore Sergio Leone, cade il muro di Berlino e per effetto domino cadono a tonfo tutte le categorie e le classificazioni. È cominciato il revisionismo musicale. Il terzo si sposa e ora ascolta Elvis Presley e il Britpop. Dice che si è stufato delle cose dure, come me, come tutti. C'è un tempo per tutto e ora è il tempo delle cose adulte. Come cercare il lavoro sicuro, la tua cornicetta laccata nella società, il posto col 27 ogni mese, la tua casella nel sistema. They offer me the office, offer me the shop. They said I better take anything they got. Do you wanna make tea at the BBC? Do you wanna be? Do you really wanna be a cop? Bang bang! Career opportunities, I wanna never knock. Every job I offer is to keep me round the docks. Career opportunities, I wanna never knock. Oi oi! È il tempo che te lo chiede. E se non te lo chiede il tempo, te lo chiede la tua mamma, che finalmente vede il disordine del disgraziato figliolo che si ricompone. Hai la tua laurea, non ci si crede. Ora farai la trafila e aspetterai il posto, la tua cornice laccata nel grande museo a cielo aperto del mondo fottuto. Sbando e fumo di tutto. Fumo per l'ultima volta dentro lo stadio Franchi, Fiorentina-Milan dei primi anni 90. Non seguo la partita. Cerco solo di immaginare il casino dello stadio quella sera di maggio del 1981, che io non so se ve l'ho detto, ma io al concerto dei Clash non c'ero. E ancora mi rode. Io ho ancora sullo stomaco la domanda da fare a Joe Strummer, che passano gli anni, invecchio, ce l'ho ancora sullo stomaco. Ma perché? Perché tutto è finito? E allora vomito, come la prima volta che ho fumato fra i binari della MUA. Non ci sento. Non vedo più. Cado in coma. Fra le due scuole di pensiero, droghe pesanti o droghe leggere, scopro, rotolando nel mio vomito, che ce n'è una terza. Meglio niente. Che poi basta un giorno di paura che muori e i giorni da vivere non ti bastano più. Meglio niente. Vino rosso. Ogni tanto un buon vino rosso e tanti merdosi ricordi. I ricordi, che sono l'unica droga che mi è rimasta. Sono a Firenze, da una col tagliere, una notte di maggio del 93, che un botto mi sveglia. Sento le sirene. Roma, Firenze, Milano. Saltano in aria tre pezzi d'Italia. Sono bombe. Esplosivo militare. Esplosivo militare. Una borsa abbandonata piena di esplosivo militare. Sarà andata così anche stavolta, eh? Che dite? Che a tutti può capitare di scordarsi una borsa con dentro qualcosa di prezioso e di ricordarsene davanti al telegiornale della sera e dire a vostra moglie: porca miseria, ecco dove l'avevo lasciata. E magari pensare che non ci dovete passare più da quelle parti, perché ogni volta vi capita di perdere qualcosa e se non ci fossero i telegiornali, chissà, neanche la soddisfazione di conoscere i nomi di chi l'ha ritrovata e ringraziarli a uno. Chi dovrà dire grazie a Roberto Procelli? Chi sarà che l'ha fatto saltare per aria? che faccia di cazzo avrà. La domanda che ancora mi rode, come quella da fare a Joe Strummer. E allora mi devo togliere le due domande dallo stomaco. Ora, adesso, da questo letto, bisogna che chieda a Joe Strummer perché sono finiti i Clash. E a Roberto, perché gliel'avrei chiesto mille volte, se fosse stato ancora vivo, se qualcuno non l'avesse massacrato insieme ad altre 84 persone. A Roberto gli avrei chiesto del concerto dei Clash a Bologna, se l'aveva visti. Roberto, oh, ci sei stato? Sì? Oddio, e com'erano? Dai, Roberto, dai, racconta come sono stati. No. E quindi... Allora lui perché la sonata la batte lì? Nel secondo pezzo. As railhead pounds feel the steel mills rust, water froze in the generation. Clear as winter ice, this is your paradise. There ain't no need for ya. Con Andrea Merendelli, autore e interprete del radiodramma punk di provincia Clash to Me, insieme a Massimo Gamma dalla ragione al basso e voce. Andrea, ben trovato. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti, grazie. Raccontaci un po' di questo lavoro. Questo lavoro è un lavoro partito quando eravamo al confine tra giovinezza e età matura, e ora che siamo dei cadaveri di quegli anni che camminano abbiamo deciso di rimetterlo insieme. Clash to Me ha fatto circa un centinaio di date in giro per l'Italia e la Svizzera negli anni in cui lo facevamo in forma di spettacolo, e abbiamo deciso di andare un pochino più a cercare le corde sottili, ovvero a sviluppare il racconto semplicemente come ascolto e in forma di radiodramma. Come era nato invece lo spettacolo? Nasce da una telefonata. Nel 2002, 23 dicembre, mi telefona appunto il Gamma, che è il mio compagno di avventura in questa versione radiofonica anche, che era il membro chitarrista della band con cui suonavo ogni tanto, cantavo, e mi dice che era morto Joe Strummer. E da quella telefonata ho cominciato a raccogliere memorie, storie di quelli che ancora erano vivi, un po' in giro per l'Italia, per il mondo, qualcuno durante le interviste è scomparso purtroppo in quegli anni lì, e quindi abbiamo deciso un po' di fare un tributo a questa comune di ex giovani sbandati che viveva fra Umbria e Toscana. E raccontiamo allora a questo punto anche la genesi di questo gruppo ispirato ai Clash. Beh, erano giovani, giovanissimi, io ero un pochino più grande di loro, e con i Clash ancora in vita fecero un piccolo atto in quegli anni lì in un paese medievale, disegnare la scritta The Clash con una stella rossa sulle mura antiche del paese, uno sfregio. Ne ero cercato i responsabili, ma non si trovarono mai, ma in realtà eravamo noi ad averlo fatto, e quindi era stato un po', diciamo, il punto di partenza di tanta provincia italiana che poi in quello spettacolo si è riconosciuta, perché Joe Strummer, la musica dei Clash, per quanto poi tutti quelli intorno a noi, quelli più duri che li chiamassero venduti, poi il tempo gli ha dato ragione, è tutt'altro che un venduto, era già strano. Ci sono due date importanti nel radiodramma: c'è il concerto a Firenze dei Clash e c'è la strage alla stazione di Bologna. Esattamente, il 2 agosto dell'80 muore a Bologna, primo corpo riconosciuto fra le macerie, un giovane militare di leva toscano, era un amico nostro, stava tornando da Bologna per raccontarci di quello che aveva visto a Piazza Maggiore. Noi eravamo proprio dei pischelli, come si dice, no? Avevamo 14-15 anni e non eravamo stati bravi da ribellarci alle famiglie per andare a vedere quel concerto. E lui ce l'avrebbe raccontato, non l'ha mai fatto perché è morto sotto questa strage infame che ha ucciso insieme a lui altre 84 persone. E poi c'è il concerto di Firenze, anche lì un racconto negativo che fa scattare un po' la scintilla nella narrazione, perché anche a quello io purtroppo i crash li ho visti quando ormai si stavano per sciogliere. E quindi insomma da questi due eventi, uno tragico e uno formativo all'incontrario, nasce poi il racconto punk di provincia. Che struttura avevate dato allo spettacolo? Beh, la band suonava e suona tuttora, insomma, anche se tenere insieme tutti i pezzi non è stato più possibile, perché si sa come vanno le cose, poi invecchiando si peggiora, certi comportamenti si sclerotizzano un po' e quindi le caratterialità non ci hanno permesso di continuare a farlo. Però, tuttavia, lo spettacolo conteneva dentro le musiche dei Clash, campionamenti di suoni dell'epoca e il mio racconto che interagiva con quello degli spettatori a volte e con gli altri compagni d'avventure, perché quattro elementi sul palco che suonavano, insomma, i Clash, forse in alcuni passaggi anche meglio degli originali. In parte l'hai detto all'inizio, che tipo di modifiche rispetto allo spettacolo ha il radiodramma? Lo spettacolo nella versione originale durava 3 ore e 40, i fanatici lo volevano in quella versione lì, poi l'abbiamo ridotto a 2 ore e il radiodramma dura meno di un'ora. Questo per dire cosa? Che l'abbiamo diviso in capitoli, sono capitoli molto veloci, veloci come le musiche, diciamo che in alcuni passaggi la versione più hardcore della musica dei Clash, questa velocità poi rallenta via via che si va nel fine verso il finale, un po' come rallentano tutti i nostri bioritmi quando si invecchia e come hanno fatto tanti, non ultimo uno che ho incontrato alla Coop fra gli scaffali del supermercato che mi ha un po' infamato perché ho citato lui nello spettacolo e nel radiodramma, diciamo che si vergogna un po' del passato della nostra adolescenza. Ecco, la mia è una battaglia perché non solo si dovrebbe vergognare di quello che è stato, ma dovrebbe andare in qualche modo orgoglioso. Per cui ecco, la struttura va sì, rallentando verso il finale, ma racconta comunque di una fiammella pilota che dovrebbe rimanere in qualche modo sempre accesa. Ha iniziato il suo viaggio da poco, come proseguirà? Innanzitutto grazie a voi in questo momento per farlo ascoltare. Cercheremo di distribuirlo, non sarà facile. È uno di quei tanti prodotti che nel momento in cui ci costringono a chiudere i teatri, noi avevamo due attività abbastanza importanti ad Agliari, una di produzione e l'altra di formazione della danza contemporanea. Sono rimaste tutte ferme e ci siamo messi a registrare, a raccontare attraverso podcast piccole grandi avventure, grazie anche all'Università dell'Autobiografia, all'Archivio dei Diari, storie a volte insomma non a lieto fine, ma è quello che in qualche modo abbiamo cercato di fare per sopravvivere a tutto quello che è accaduto. Dalla vita vissuta allo spettacolo, al radiodramma, che distillato ne fai di questo percorso di vita? Io dico che il punk è la più grande rivoluzione del Novecento, no? Una rivoluzione che però forse non è mai esistita. Di sicuro quello spirito, le modalità del fai da te, cosiddetto DIY, ma per quello che in qualche modo ha influenzato nei rispettivi lavori, anche in quello che faccio tuttora, tante persone, io ritengo che sia lo spirito giusto anche per affrontare la vita. E in qualche modo, ovviamente, decantando la parte più distruttiva che ogni tanto ci assale lo stesso nell'uso, a volte nell'abuso anche dell'alcol, che è l'unica cosa che ci è rimasta un po' per intrattenerci, ma la cosa è che è un filo narrativo anche di attitudine che in qualche modo tutti quelli che l'hanno conservato ha legato due o forse tre generazioni. È un filo invisibile anche proprio di atteggiamento e di comportamento nei confronti dei prodotti, della produzione artistica, culturale, di uno sguardo un po' sul mondo un po' disincantato, ma che in qualche modo non si adegui in maniera supina e genuflessa al mainstream che ci travolge a tutti. Per maggiori riferimenti ho visto che c'è una pagina Facebook, Clash to Me. C'è una pagina Facebook, Clash to Me, e lì ci sono, la tene in vita uno di noi, e ci sono tutta una serie di riferimenti a quello che è anche il libro, perché tutto questo poi nasce appunto da un romanzo punk di Frugincia, che è stato, diciamo, nella rosa dei venti del Premio Calvino nel 2015, e quindi una casa editrice sono riuscita a pubblicarlo, e da lì è nato tutto quello che ha germinato intorno. Credo che chi vuol saperne di più, lì dentro quella pagina trovi, insomma, tante informazioni. Clash to Me, radiodramma punk di provincia, di e con Andrea Merendelli e Massimo Gamma dalla regione al basso e voce. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto! Crepi, saluti a tutti. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Gloria Sapio, co-direttrice artistica del Festival multidisciplinare Portraits on Stage, Arte in Cammino, dal 19 giugno al 30 luglio 2021. Ben trovata. Sì. Ciao, grazie. Giacomo Arano e con Piccoli Corrado, Vicenza e Gerano, che sono tutti i paesi della Valle dell'Aniene. Sinteticamente Valle dell'Aniene. Valle dell'Aniene, sì, e sono tutti i paesi che sono posti sulla famosa Cammino Benedettino. E quindi diciamo che la loro tensione è verso Subiaco, se non altro perché nell'epoca del Grand Tour questo era il percorso che facevano sia gli artisti, gli scrittori, poeti, che da Roma si muovevano verso Tivoli e poi andavano a Sacro Stecco, sia i pellegrini che per motivi più religiosi andavano a visitare, a rendere omaggio al monastero dove è morto San Benedetto. Raccontaci di cosa si tratta. Portraits on Stage è una rete di cui noi siamo partner da tanti anni ed è una rete tra compagnie, organismi che per differenti motivi, ma per un'ispirazione comune, hanno cominciato a fare spettacoli che parlano di arte figurativa. Quindi, avendo scoperto queste cose, abbiamo pensato di creare una rete anche per metterci in contatto con altri, no? Allargare il discorso, mostrare altri spettacoli, perché in effetti sono molte le opere di arte dal vivo ispirate all'arte figurativa, sotto diverse sfaccettature, no? Utilizzando anche diversi linguaggi. Infatti il nostro è un festival multidisciplinare. Il festival prende spunto dalla operatività di questa rete e ha come scopo comunque quello di usare l'arte per veicolare un pensiero sull'arte. In questo caso un'arte che si anche al sacro, non perché ci sia la sacralità nei temi scelti, ma perché sono i luoghi che diventano di per se stessi sacri e fonti di ispirazione. Abbiamo vinto con questo progetto l'avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi attraverso lo spettacolo dal vivo, che ha indetto la Regione Lazio. E quindi ecco lì che noi ci mettiamo in cammino, infatti il sottotitolo della nostra manifestazione è Arte in Cammino, ci mettiamo in cammino per questi paesi e lì in mezzo a grazie, nella vicinanza di luoghi incredibili, sperando anche che la gente discopra o li discopra, come per esempio la villa di Orazio a Licenza o la rocca di Subiaco a Paziale a Subiaco, ecco lì noi diamo vita a questi spettacoli, ubichiamo questa rassegna, che come ho detto è una rassegna di teatro, di arte, di musica e anche di performing arts. Quanti sono nel complesso gli appuntamenti? Per Arte in Cammino sono 14. 13 titoli diversi e più uno spettacolo in replica. Poi abbiamo uno spin-off di cui però ancora non parliamo perché è prematuro. Quali sono stati i criteri di scelta di queste performance? Ci siamo aiutati ovviamente con i contatti della rete, ma abbiamo anche creato un bando. Per esempio per quanto riguarda la giovane creatività, noi abbiamo anche un'attività, noi siamo una residenza artistica, anzi siamo un organismo che fa parte del centro di residenza artistica della Regione Lazio, scusa, di centro di residenza della Regione Lazio, che si chiama Periferie Artistiche, e quindi abbiamo diciamo una vocazione anche allo scouting e alla promozione di spettacoli delle nuove generazioni. E abbiamo pensato di fare un bando che si chiama Portraits on Stage, abbiamo coinvolto anche gli altri promotori e attraverso quello abbiamo fatto una selezione, abbiamo trovato dei vincitori e li abbiamo programmati. E poi appunto ripeto, la nostra osservazione di quello che c'è diciamo sul territorio nazionale avviene soprattutto grazie alla rete e ci sono, ripeto, moltissimi spettacoli che possono entrare a far parte di quest'idea, no? Di questo Portraits on Stage. Abbiamo anche una sezione che si chiama Il Sentiero dei Piccoli, dove diamo spazio a degli spettacoli di teatro per le famiglie, ma diciamo con un'attenzione ai bambini, e dove l'arte viene spiegata ai bambini. E sono molto orgogliosa di questa sezione perché non è un fatto scontato. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli? Noi siamo su Facebook, sia come Quartet on Stage, sia come Settimo Cielo. Il nostro sito è www.settimocielo.net e abbiamo ovviamente anche un numero di telefono, ma forse la cosa più pratica e anche più facile da ricordare è il sito. Naturalmente abbiamo anche la possibilità di fare comprare al pubblico biglietti via internet, per cui Ticketgate, su Ticketgate. E poi abbiamo, dicevo, una mail dedicata che si chiama prenotazioni@settimocielo.net. Ricordo che è necessario prenotare perché siamo ancora in una situazione, insomma, complicata, quindi i posti sono a sedere, posti numerati, assegnati e distanziati, per la sicurezza di tutti naturalmente. Il festival multidisciplinare Portrait on Stage Arte in Cammino nella Valle dell'Aniene dal 19 giugno al 30 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Gloria Sapio. Un in bocca al lupo mille, e a presto. Grazie. A prestissimo, veniteci a trovare, sono posti fantastici, vale la pena. Con Gianluca Peciola, autore del libro Rincorrere il vento, Genova 2001. A Roma, al B-Side, giovedì 24 giugno 2021. Ben trovato. Ciao, grazie. Che racconto è? È un romanzo, è una storia di un gruppo di ragazzi e ragazze che parte da Roma ed è un'esperienza di vita che li segnerà per sempre, perché è l'esperienza di chi pensa a Genova come un grande momento di partecipazione, di conflitto, e dentro ci mette le aspettative di un ragazzo di 24-25 anni e quindi la possibilità di cambiare il mondo, di andare contro i potenti della terra, ma anche di fare un'esperienza umana, affettiva, di fare un'esperienza di comunità, insomma quello che può sentire un ragazzo o una ragazza quando parte per un'avventura, perché poi per molti contrastare il G8 era sicuramente un fatto politico, era la scelta di militanza, però è stata anche una scelta di comunità, insomma, che appunto rincorrere il vento, in qualche modo ci si è fatti trasportare da quel vento dei movimenti antiglobalizzazione che dal Brasile per Seattle, passando per l'Italia, insomma, stava in qualche modo attraversando il mondo e in Italia è diventato un punto di riferimento ideologico, politico, ma anche esistenziale. Quindi, diciamo, non è un racconto strettamente politico, è la storia di alcuni ragazzi e ragazze che provano a mettersi in gioco e lo fanno per tanti motivi, lo fanno forse anche per stare semplicemente insieme, per farsi coinvolgere da una passione nuova che era quella che stavamo conoscendo un po' tutti noi 20 anni fa. Com'è nato il progetto? In collaborazione con la rivista Intersezionale, che è una bella rivista ecologista, femminista, anticapitalista online, e questa collaborazione è stata fulminea, ci siamo incontrati, il progetto è piaciuto, tra l'altro loro hanno suggerito una illustratrice bravissima che è Arcangela Di Cesare, che ha fatto appunto tutte le illustrazioni del libro, e ci siamo messi a pensare insieme il modo migliore per raccontare Genova. Non ci convinceva l'idea di fare un saggio oppure di fare un progetto rievocativo attraverso le testimonianze o attraverso appunto analisi politiche, non che questo vada sminuito come spunto, però ci piaceva più l'idea di fare un racconto, una storia, un romanzo, cioè di arrivare anche ad altri mondi, perché poi c'è sempre il rischio di raccontare Genova o di raccontare la storia e farne oggetto di interesse soltanto per gli addetti ai lavori, per chi è interessato di politica. Invece vedo con piacere che questo progetto, questo libro sta anche piacendo ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori. Per esempio ci sarà un incontro con i collettivi studenteschi a Casetta Rossa, sarà un seminario appunto su Genova e anche l'occasione per parlare di questo romanzo, di questa narrazione. Quindi l'idea nasce con l'intento di parlare delle ragioni di quel movimento, di quel conflitto, per ricordare anche il sacrificio altissimo che c'è stato, perché lì abbiamo perso un compagno, è stato ucciso un compagno, è stato ucciso Carlo Giuliani, raccontare quella esperienza cercando di arrivare il più lontano possibile e di raggiungere più persone, perché perché è successo un fatto straordinario 20 anni fa, non soltanto per la partecipazione e per il livello di conflittualità, ma anche per il laboratorio di repressione, di controllo, di dominio dello Stato, e quindi deve essere sempre un fatto in grado di allertare, quello di ricordare, no? La memoria deve avere un obiettivo di insegnamento, di orientamento, di riflessione su quello che potrebbe essere il presente e il futuro. Ci sono elementi autobiografici? Io ovviamente c'ero, come tanti di noi, ero in prima fila in quella vicenda, soprattutto Giatto Le Maide, lì nello scontro, il primo scontro con il reparto sommossa dei carabinieri, ero tra quelli che ovviamente reggeva gli scudi e che ha subito il primo impatto. Da lì ovviamente è nato uno scontro che si è prolungato da quella carica a freddo, il corteo a quel punto era ancora autorizzato, mancavano 300 metri alla zona rossa, che la zona rossa era quella che circondava, che proteggeva la zona dove si svolgeva il vertice. Ovviamente dopo quel primo scontro, quella prima aggressione da parte dei carabinieri, è nata una battaglia vera e propria. Infatti il romanzo non è leggero nel ricostruire il livello di violenza delle forze dell'ordine, però anche non c'è nessun pietismo, non c'è nessuna concessione alla lamentela o alla lagna difensiva. Lì si è messo poi in campo tutto quello che era un armamentario di autodifesa, di protezione dei corpi, che è diventata anche aggressione, perché lo Stato ha messo in campo un livello di violenza e di soppressione dello Stato di diritto eccezionale. Soltanto a Napoli era stato conosciuto pochi mesi prima, parlo ovviamente dei movimenti contemporanei, non faccio riferimento al passato, e quindi lì si è puntato a sopravvivere. Quei ragazzi non se l'aspettavano di dover puntare a sopravvivere. Questo è anche un punto interessante, penso, del libro, perché si era partiti con l'idea, l'intento di andare a fare un conflitto anche duro, perché bisognava ovviamente fermare le politiche di globalizzazione economica, di sfruttamento delle risorse, di accumulazione del debito a danno degli ultimi della terra, quindi la dimensione politica c'era, era molto forte, però sicuramente non ci si aspettava la tortura, Diaz, Bolzaneto, non ci si aspettava la sospensione dello Stato di diritto per più giorni. Quindi sì, la dimensione autobiografica c'è, però è un po' un io collettivo, nel senso che raccolgo le memorie, i racconti, quello che ho visto, quello che hanno visto altri, un po' come la storia sociale. Un po' l'idea è quella di raccontare una visione anche collettiva, un'esperienzialità collettiva di chi ha combattuto nel vero senso della parola. Qualcuno dice sembra un western il mio libro, però adesso si può dire che ci sono stati due giorni di lotta, di conflitto, in cui a un certo punto i ragazzi, i più giovani soprattutto, hanno pensato a uscirne vivi. A 20 anni di distanza, come si articolano gli altri mondi possibili? Beh, ci sono tante visioni adesso che stanno prendendo corpo, soprattutto in risposta alle insufficienze delle risposte alla pandemia. Il gioco di parole per dire che nell'assenza dello Stato sociale, delle politiche di welfare, delle politiche per il benessere della persona, in un momento in cui c'è bisogno di sanità pubblica, c'è bisogno di pensare il rapporto col cibo in maniera diversa, il rapporto con la terra in maniera diversa, ci sono persone, cittadini, cittadine, lavoratori, lavoratrici, mondi, intelligenze che stanno non soltanto pensando ma anche realizzando altri mondi possibili. Lo fanno nei luoghi di lavoro, nei rapporti anche con il sindacato, lo fanno producendo in maniera alternativa, lo fanno facendo comunità, solidarietà, antirazzismo, pensando anche ad aiutare chi prova ad arrivare nel nostro paese con una richiesta di accoglienza, lo fanno pensando un mondo dal punto di vista della donna e non dal punto di vista onnicomprensivo dell'uomo, che decide i rapporti salariali, economici e anche come deve essere organizzata la vita sociale. Quindi ci sono delle proposte, idee in cammino, alcune sono molto operative, perché poi quando la crisi morde c'è la necessità di fare. Mi vengono in mente anche tutte le esperienze di mutualismo, di risposta alla sofferenza sociale prodotta dalla pandemia. Mi sembra che manchi quel racconto interconnesso, quel racconto che si teneva per mano anche con tutte le divisioni, tant'è che il libro ne parla, no? Di come siamo arrivati uniti e divisi a Genova, no? I blocchi, però c'era in qualche modo una cooperazione funzionale a raggiungere l'obiettivo, cioè a sconfiggere le politiche di globalizzazione economica e di sfruttamento degli uomini, delle donne e della terra, per fare una sintesi molto rapida. E quel modo di tenersi per mano e di pensare insieme, cooperando anche in maniera competitiva, se volete, tra le forze della sinistra antagonista, anticapitalista e femminista, è quello che in qualche modo sta mancando in questa fase storica, dovuta anche ovviamente alla pandemia, questa insufficienza, ma dovuta anche forse alla poca capacità di vedere qual è la potenzialità in campo che noi possiamo mettere in questo momento, perché una risposta che tenga insieme le esigenze dell'uomo, della donna e del pianeta, il capitalismo non ce l'ha, e quindi c'è bisogno di un'altra risposta che invece sia molto più cooperante, che disegni anche un altro obiettivo di società, come abbiamo provato a fare 20 anni fa. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per l'appuntamento e per maggiori informazioni sul libro? La casa editrice è L'Incisiva, per cui lo trovate sul profilo Facebook di questa casa editrice, che è una casa editrice indipendente che fa riferimento al centro sociale Spartaco. Tutti gli introiti della pubblicazione andranno all'ONG Mediterranea. Sarà una vendita prevalentemente militante, anche per favorire questo sostegno all'ONG Mediterranea. E il 24 a B-Side facciamo la prima presentazione, lo facciamo con Giuliano Giuliani, che sarà al telefono con noi, poi con Francesca David, segretaria nazionale della FIOM, con Ilaria Cucchi, con Fabio Anselmo, con Celeste Costantino. Ci sarà con noi Arcangela Di Cesare, che sarà sul posto delle illustrazioni, e verrà introdotto da Marco Bucci, che è il referente della casa editrice Incisiva. Ci sarà anche un reading da parte di Daniele Miglio, che lo conoscete, un attore sempre presente anche su tematiche sociali. Rincorrere il vento, Genova 2001, a Roma al B-Side, giovedì 24 giugno 2021. Un saluto e un ringraziamento all'autore Gianluca Peciola. Un grazie in bocca al lupo. Grazie a te, Federico. Grazie, ciao. Con Maddalena Tiburzio, una delle curatrici del libro Genova 2001-2021, Cerchi della memoria. Ben trovata. Ciao, ben trovati a voi. Raccontaci un po' di quest'opera. È il prodotto di un seminario, un laboratorio di storia orale che ci siamo inventati di fare al Cinema Palazzo nel 2016. Più di qualcuno ci ha detto: 15 anni dopo Genova è troppo presto, non è ancora storia, lasciate stare. Però a noi sembrava che proprio raccontare l'esperienza vissuta, le emozioni, fosse importantissimo. Un po' perché si rischiava di scordarci di Carlo. L'abbiamo già vissuto, io ho una certa età e quindi insomma gli anni 70 e tante persone lasciate per strada ce le ricordiamo con amarezza. Questo non volevamo succedesse con Carlo, e ci importava di riflettere insieme ad altri, ricordandoci di quanto fosse plurale quel mondo a Genova nel 2001. Comunque abbiamo fatto un invito aperto, volevamo minimizzare ciò che divide e cercare ciò che unisce, perché l'esperienza poi era stata un'esperienza di tutte quelle anime del movimento dei movimenti. Devo dire fortemente incoraggiati e aiutati da Alessandro Portelli, che è uno dei nostri miti. Abbiamo cominciato appunto con questo passaparola, vieni parliamo di Genova, a riunirci al Cinema Palazzo, a volte 20, a volte 10, a volte 30 persone, e i nostri temi erano molto molto larghi, proprio perché volevamo che ognuno potesse superare la difficoltà di parlare delle proprie emozioni in pubblico, del proprio vissuto, di magari alcuni episodi più o meno scabrosi. No, non sempre è facile essere aperti, e devo dire che insomma, a vedere, a rileggere, a correggere le bozze, a impaginare, insomma, il materiale è comunque emozionante, ecco, anche 20 anni dopo fa veramente emozione leggere quella roba vera, vissuta, paure, incazzature, sollievi, però consapevoli che non tutti l'avevano scampata, ecco. Diciamo che restituisce forte poi quest'idea di tanti, di un insieme di cose, e Portelli ci ha regalato un'immagine bellissima che è il mosaico, no? E ci dice: le memorie sono tutte incastonate nelle nostre vite, ognuno di noi è un libro e si può aprire e leggere. E questo abbiamo fatto, quindi abbiamo raccontato, abbiamo pazientemente registrato ancora pazientemente sbobinato, e adesso che con le vicissitudini del Cinema Palazzo, gli sgomberi, questo, quello, quell'altro, il ventennale, il supporto legale che sembrava chiudesse, poi alla fine questi strascichi sono micidiali, vecchi, finotti, insomma ci è sembrato che fosse il caso di tirar fuori queste memorie per riparlarne, anche perché tutti i temi toccati allora sono sempre comunque stati in prima fila, nel segreto delle stanze o sulla pubblica piazza, beni comuni, diritti, internazionalismo, l'idea della rete, l'idea della controinformazione, sono tutte cose che sono ancora, mi sembra, di un'attualità veramente sconvolgente. E in più c'è la gira zapatista, e quindi insomma quella spinta al movimento dei movimenti dato dai zapatisti allora, devo dire che ecco là che ci incontriamo anche oggi. Magari sarà in estate, sarà in autunno, però insomma siamo vicini a un ventennale importante. Quante persone avete ascoltato e quali sono stati anche i criteri di scelta? Non abbiamo scelto, posso raccontare che è andato perduto un file, ecco, queste sono le disavventure delle autoproduzioni, è stato sovrascritto, ma insomma, ecco, quindi quello è purtroppo un dettaglio, volevo non dirtelo, ma insomma, noi abbiamo sollecitato le persone, quelle ovviamente con una presenza più costante, a parlare del loro prima di Genova, e essendo che c'è stato uno scambio anche fra generazioni, qualcuno è partito dai 70, qualcuno dagli 80, qualcuno dai 90, qualcuno era quasi nato nel 2001. E poi abbiamo raccontato le tre giornate, appunto quell'esperienza lì, e poi qualcuno è riuscito anche a parlare del dopo Genova, cioè i movimenti contro la guerra, l'acqua pubblica, il nuovo respiro di Non Una di Meno, e queste cose sono raccolte, ma non abbiamo eliminato nessuno, anzi, noi abbiamo sempre voluto tutto, scherzavamo dicendo che ci manca la suora. Per un totale di quante persone comunque? Ma direi una ventina. Che insieme viene fuori? Intanto che Carlo l'abbiamo sentito come uno che non c'era, era mancante, e soprattutto che le lotte si dovevano moltiplicare, che quest'idea del dopo, qualcuno ha parlato di crack, qualcuno ha parlato movimento distrutto, qualcuno ha detto no, invece io sono ripartito proprio da lì, mi sono incazzato. Ecco, anche questo è il mosaico delle posizioni. In realtà non si può mollare con la memoria, proprio perché c'è una ricchezza tale di esperienze e di roba di costruire una sull'altra, mi sembra importantissimo. Ne viene fuori che siamo ancora qui, che non abbiamo smesso, che bisogna riprendere parola, che così come allora si affermò la libertà di poter marciare sulle strade di Genova, bisogna ricominciare a marciare per le strade del mondo. Ecco, io non lo so, forse sono io, ma sempre questo è quello che ricavo. Non è finita, si dice di Genova. È proprio vero, non è finita. In chiusura ci dai dei riferimenti per seguire anche il calendario di presentazioni? openddb.it, quindi distribuzioni dal basso al nostro libro in prevendita. E poi do un altro accenno a www.elementikairos.org, dove anche si trovano le collane da TIC che appunto, come il nostro libro, probabilmente andrà a finanziare la gira zapatista, e insomma, e che ci hanno fatto questo dono di editarci, e fra le altre tante di Elementi Kairos, leggendo il libro, ci ha pure fatto il regalo di un racconto scritto apposta per questa uscita. Mi è sembrato un regalo che faceva parte proprio dell'emozione di questi racconti, nel senso che magari le storie politiche di Sant'Emeo o la mia Madrena di Burzo che viene da Venezia, che ha 60 anni, no, potevano essere diversissime, e vedi che è di nuovo scattato uno scambio, di nuovo una generosità, ecco, questo è l'anima buona. Il libro di testimonianze Genova 2001-2021, Cerchi della memoria, un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Maddalena Tiburzio. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. In bocca al lupo a tutti, a voi. Eccoci all'agenda della settimana teatrale con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ben trovato, Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, insomma, questa è una settimana che si apre con il fuoco in qualche maniera, perché dopo le due settimane precedenti in cui i due spettacoli in programma, Teatro India di Roma, quindi dal Teatro Nazionale, sono stati bloccati da una protesta sindacale che è sembrata, diciamo, all'intera comunità artistica leggermente pretestuosa, come abbiamo spiegato anche già la scorsa settimana. Ora, diciamo, dopo che gli spettacoli Antigone e Sonora Desert non hanno potuto fare nessuna delle repliche previste, l'intera comunità artistica di Roma e nazionale sta uscendo con una lettera aperta firmata da grandi artisti nazionali e internazionali, proprio per sensibilizzare su un punto che non è stato a dovere evidenziato, ossia il fatto che qui siamo all'interno di un conflitto che è politico e culturale, in cui il settore artistico, soprattutto dopo una pandemia del genere, come al solito viene utilizzato in maniera strumentale per lotte di interesse, lotte di potere. Quindi quello che si chiede all'interno della lettera aperta, che mi sento di sottoscrivere ampiamente, è che finalmente qualcuno possa affrontare e risolvere queste condizioni di precarietà che tengono l'arte sempre soggetta a dei movimenti di potere e mai autonoma, mai liberata da questa morsa in cui il contesto artistico solitamente è coinvolto. Quindi è molto interessante quello che è successo, perché porta, ecco, a evidenziare questa problematica. Tanti artisti appunto stanno fin da ieri firmando questa lettera aperta, questo comunicato, sicuramente sta aperto a tutti, quindi lo dico tramite quei canali, tramite social, ma anche tramite Teatro e Critica, faremo in modo di tirarla fuori, insomma, dall'anonimato, che possa essere firmata un po' da tutti, anche perché poi questa lettera, ma questo contesto, che quello che è avvenuto in questi giorni, per l'ennesima volta fortifica quello che poi è un senso molto profondo del fare teatro, cioè il fatto che il momento centrale, che sostanzia, che dà sostanza alla funzione del teatro, soprattutto del teatro pubblico, è proprio l'incontro con il pubblico. Quindi l'arte è fatta non solo da chi compone il gesto, l'opera, ma soprattutto dalla relazione con chi quel gesto può fruirlo, osservarlo, percepirlo. Quindi ecco, questo in qualche modo riesce a tenere insieme in un'unica volontà i due punti fondanti del contatto artistico, l'attore e lo spettatore. Per quanto riguarda il teatro che si fa, invece, che si spera si faccia, io direi che possiamo cominciare con ciò che si fa intorno a Roma. Vedo che, insomma, mi viene segnalato questo progetto di danza 25, 26, 27 giugno, Portraits on Stage, Arte in Cammino, nel festival multidisciplinare che sarà nei comuni attorno a Roma di Gerano, Maragno Equo e Licenza, appunto, nella Valle delle Neve. Il 25 giugno sarà la mia opera prima, che presenta il colore oltre lo strappo, è un progetto dedicato ai più giovani, con uno spettacolo fatto di colori, di materiali, di prospettive, quindi ci si potrà mettere le mani in qualche modo. Poi il 26 giugno invece a Marano Equo la compagnia Stalker Teatro porta in piazza la performance installazione interattiva Prospero, che con impatto visivo e musicale si rivolge al pubblico, con una chiamata, diciamo, uno spettacolo immersivo che sta appunto da ponte tra arte visiva e performance art, quindi è interessante chiunque, insomma, segua questo tipo di contesto, è molto interessante. Il 27 giugno invece ancora l'occasione per vedere fuori Roma Twain, il centro di produzione Twain, Twain come l'abbiamo conosciuto in passato, a Licenza presso la Villa di Orazio, presenta lo spettacolo Memorie di un ciabattino, che è ispirato a Giulio Cesare di Shakespeare, che ripercorre l'ultima fase della vita di Giulio Cesare, visti dalla prospettiva proprio di Giulio, il servo di Marco Giunio Bruto, il ciabattino appunto che sogna di essere un uomo libero. Questo appunto è in collaborazione col Teatro La Fenice di Arzo, la tre giorni, 25, 26, 27 giugno, di questo Portraits on Stage alle porte di Roma. Per quanto riguarda invece il Centro Culturale Elsa Morante, nel 25 giugno verrà presentato La Scelta Muta le Cose alle ore 18, è un progetto di Abraxa Teatro che coinvolge appunto le biblioteche di Roma nell'arena estiva. Il sottotitolo è piuttosto eloquente: La Maschera alla ricerca dell'ottimismo. Quindi sono quattro gruppi teatrali che attraverso questo seminario informativo sono Poi arrivati a questa messa in scena composta da quattro spettacoli per spaziare all'interno dei temi della commedia dell'arte, quindi insomma la possibilità contemporanea dell'uso della maschera è molto interessante. Per quanto riguarda invece il Teatro Vascello, andiamo a vedere un progetto che resta in scena soltanto stasera e domani, in realtà Il Partito, una cantata politica, è un'opera a due mani di Camilla Ravera e Fausto Amodei sulla storia della nascita del PC proprio nell'anno del suo centenario, e assieme ci sarà la maestria della grande musicista Giovanna Marini, che ispira tutto il progetto, insomma, e dirige un po' l'esecuzione, dirige, concerta, no? L'esecuzione del coro Inni e Canti di Lotta, che è diretto invece da Sandra Cotronei, e assieme anche alla piccola orchestra diretta da Giulia Accardo, quindi un progetto che tiene insieme la musica, il canto e non solo il racconto, appunto ispirato appunto al diario di 30 anni proprio di Camilla Ravera, che fu appassionata artefice della nascita del Partito Comunista, ormai 21 gennaio del 1921. Ultime due cose di cui parlerei: si tratta di Dominio Pubblico, che comincia proprio venerdì 25 giugno, si spera in realtà al Teatro India, per quanto detto prima. Si comincia con la danza, ci saranno più spettacoli durante la stessa giornata, e appunto al Teatro India venerdì 25 vedremo Another With You di Vidya Crafts, è appunto un lavoro di danza, così come la performance Else or the January Blues di Carla Andolina, e All You Can Hitler, che è invece un concesto più teatrale, con la regia di Andrea Piazza, il titolo abbastanza eloquente. Per quanto riguarda invece il 26 giugno, ci si sposterà allo spazio Rossellini per appunto vedere ancora un lavoro di circo, così come Peregrinazione del collettivo Musico, di nuovo però in questo caso al Teatro India, quindi ci si spostano al Teatro India, mentre invece il 27, che è domenica, c'è un incontro anche con Margine Operativo per il Festival Attraversamenti Multipli al Teatro India dalle 16 alle 18, e altri lavori come It's Just a Trick di Iole La Sala, appunto ancora la danza, e prossima puntata con la regia di Valeria Vandia, che è un lavoro più teatrale, ci sarà spazio anche per dei concerti per la musica tutte le sere. Ancora danza per l'ultima cosa che segnalo oggi, ossia l'inizio del Festival di Danza Fuori Programma, assieme appunto al Teatro Quarticciolo, alla stagione estiva del Teatro Quarticciolo, che vedrà questa settimana Tempi Moderni, un Dante Corretto, bravo, grazie, con la regia di Umberto Castello di Aldes Teatro, il testo e l'interpretazione di Andrea Cosentino e una danzatrice che si chiama Erika Bravini, ed è un lavoro che terrà insieme anche un'idea di scambio proprio con la popolazione del quartiere Quarticciolo, perché appunto per partecipare agli spettacoli si andrà a scambiare, si andrà con il barattolo, lo spettacolo si paga attraverso beni di prima necessità, quindi come il festival della nostra amica Elena Guerrini, ti ricorderai Federico, se il teatro barattolo, insomma, lei rivendica sempre l'invenzione. Mentre invece il 28 giugno, che è lunedì, ci saranno due date, 28 e 29 giugno, ma ne parleremo anche martedì prossimo, per il Balletto Civile, che a Parco Alessandrino presenta MAD, Museo Antropologico del Danzatore, la coreografia e la regia è di Michela Lucenti, una performance assai specifica organizzata proprio per il Parco Alessandrino. E questo è tutto. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.